questo è Minoga. Ho detto che sono sciolto, ma non di più, no, di più. Io, Jacopo, di Camogio in fretta. Ma mai sai la modulazione, Natali? Ma adesso va bene, poco fa non sta dicendo niente. Evidentemente non avevi schiacciato bene il PCC. Lei, no, ma è il microfono, no, una cicca. Udi di sua moglie, da voi a fetta voci. Ma me adesso mi sto facendo due bistecche di carne e cavallo con patatine. E allora andare. E guarda che tu vuoi mangiare, sono la ministra, basta pazza, cazzo, sono stanco di mangiare pazza. E scappa. E io ho fatto delle fetticine oggi, a pranzo, e delle polpette, boh, basta. Buoni, sono buoni. Questo non si capisce niente nel frattempo. Cioè, la sole stamattina, tutto un tratto verso le 11, iniziano a curare come tu vuoi, a lavorarsi. E me l'ha detto mia moglie, stava facendo freddo. Io non sono uscito, ma... Cazzo, stamattina si sono riusciti a essere che mezzo per andare a lavorare. Cazzo, davvero, ma con figurare di vento. Sì, ma da lui a girare, lui gira. Cazzo, 10:30, verso 10:30 oggi inizia a arrivare che non volone, vento. Cazzo, lui si è ferma laggiù. Per carità. Sì, domani devo passare la giornata a casa al telefono se non mi rispondono quelli del CUP e mi devo ordinare delle analisi, che mi devo fare fai frutti. Delle visite sono, poi delle analisi per fare la visita diabetologica, quindi devo portare tutto. E se non hai direttamente che sul telefono, ma con il ripone la morissi. E vabbè, io telefono dalle 8 e vediamo un po' se mi rispondono. Esce e dice, ma se trovo posto, perché che non è detto che anche se ti rispondono ci sia il posto per fare queste visite. E li devo fare cosa chi li devo buttare quando devo fare la visita diabetologica, capito? È un casino, ma non ci sono queste visite di mezzo. Lo so, poi ho anche due tacche da fare per vedere se mi possono operare, ma chissà cosa, vabbè là, vediamo un po' se ce la faccio domani. Guarda che si bisogna a un telefono, fui. Vabbè Manuel, là, io ti lascio un attimo che devo andare a tutti a Capicolino, ci sentiamo più tardi a lì. Rimango il cuore che tanto dai, a dopo. Telefonando andare. mari, care. Chi è a Mogolino? Questo mi prende male. Ciao Bombolino, cazzo, se le immagini, sembrava un lupo, sembrava. E tu vai a un visito, lupo, gli anelli. E allora, fammi, posso, oh Bianca, mi hai dovuto prendere la supermercato, che robin di là, ma la farina. Una cappa. Vado a mangiare affettati che fanno male. Ma che affettati? La mozzarella affettato. Ciao per pizza! Invece ho dimenticato di una cosa. Mi hanno regalato la Camani, da voi fare un abbiglio. Cos'è? Roba mona. Proprio già pizza. La mona è a Romano. Ma che tu dici? Eh? L'hanno regalata stamattina. Speriamo che non sia una muffa. No, per me è cago di culo, non è roba buona. Una muffa, non ha giusto un cago di culo. Guarda dentro che non sia una muffa. Può essere, No, è roba buona, è roba tranquilla. Ma lo sai, non strana o comparata? No, me l'ha dato un cliente, me l'ha data. Sono andato a ricaricare la bombola, ha mandato la salsiccia. Andare allora, affetta al tuo, a tutti i dirmi, salsiccia, cacio. Papà, e ci andiamo a tagliare la cosa, ma a mozzare, a farlo di pizza, papà, la me. Cioè, io due bistecche di carne e cavallo, due mozzarelle e mezzo litro di vino rosso. Perché devo mantenere la dieta. Cappa. Avanti Natali, io mi faccio, mi assento un attimo che mi metto a fare quella roba, se no mi capo bene. Ehi, io affetta mozzarella in fretta, così ti va la pizza a Sanotti. Tutti in fila. Silenzio, silenzio, assoluto. Io sono qua, se non parlate. Mi devo comprare un altro barecchino più grande per sentire più bene il QRM, lo sai la cavi. Ehi cavolo, io mi lascio comparato più umano perché mi hai fatto sempre il QRM. Cazzo, ma che cazzo sei? Per cosa la giochi, sì? Cazzo, sei il mio della televisione e tu? Adesso abbassiamo, bene va, e mi avvicino anche al microfono. No, ma sai sentire, più la televisione che tu. Come trovo il microfono normale, vedrai, non si sentirà più nulla. Cazzi, un microfono normale devo buscare. Sto amplificato a quello, cazzo, ma lo so, ma ti sento i sottofoni della casa. Sì, me lo posso immaginare, è un bel sensibile. Cazzo, un bel sensibile, tu devi mettere un microfono normale. Sì, infatti. Ma com'è che alle 2 mesi, domani entro. Ci vuole, cazzo, no, oia. No, non si può andare avanti così, Natale. Non si può, c'è una persona che c'è 2 mesi, si sta già lamentando, e qui, là, e cazzo, c'è un anno e più io. Ma 2 mesi? E infatti, da voi, cazzo, rabbini, e s'assuccia, ne quando vedi in tutti i fiori, ti devi venire a fare tutti i servizi così, e stanca molto quel servizio. Poi è uno che ha paura pure di fare la notte, lascia perdere, per carità. E se ha paura a fare la notte ci dura poco lì. E infatti io penso che non durerà tanto, perché non sono adatti a fare questo lavoro qua. Di giorno non glielo possono far fare sempre, perché bisogna fare girare a tutti. Bisogna sempre fare girare a tutti. E infatti, uno non può già sempre di tutti, no? Anzi, c'era quando facevamo quest'estate, facevamo solo la notte perché eravamo in un altro appalto, avevamo preso nei cantieri, nelle strade però. Facevamo solo la notte, il giorno c'era solo la domenica. senza giù. Sono piccole parti del legno. Dipende dalla parte, quindi chi è? Eh? Dipende dall'appalto che è. E questo era un appalto dove stavano facendo, la fibra. Da Fiume Santo verso Portata Montana. Pensa tu. Oh signor, chi di Natale chiamato, no? E chi Natale? Quelli là, che mi avevi detto. Ah no, quelli là, allora, dovrebbe, perché sta male, è ammalato. In pratica, settimana prossima lo dovrebbe contattare e poi dobbiamo andare a Uri per il colloquio. Speriamo bene, speriamo bene. In pratica sono la stessa azienda di quel portavalore che è stato smaneggiato. Vabbè, non ne dico. Non ne volevo dire io. Non di noi niente, no. E poi devo fare il rinnovo del decreto mio, del mio decreto, che un paio di giorni me lo rinnovano. Un paio di giorni. Non devo aspettare 3-4 mesi, quello che a me me lo rinnovano subito perché ce l'ho già. E infatti. Poi vediamo. Se mi ricordo di fare quello, sui cosi, sui blindati faccio i blindati, solo i blindati. E minore sono. E minore è più di là, so. Non è solo le ore, sono più di là, Natali. Ho capito che rischio ogni giorno, ma non me l'ha fatto un cazzo. Non me ne frega niente. No, non è quello il problema. E infatti. Eh sì, è così, eh. Alberto, buonasera, buonasera anche a voi. Ma tutta qui Padre Natalino, eh. Poi Paduia, orecchie pelose. Ah, ecco, come lo dici. Ma io sempre attendito. Perché? Non è colpa la modulazione. Non lo so, Natale, come lo senti tu? Sì, come al solito. No, era diversa la modulazione che aveva attore, era più squillante. Dici, molto più squillante. Sì, questa qua rimane cupa. È buona lo stesso, Però l'altra era meglio. Non è richiesta squillante, che piace richiesta squillante, che è pittina di puro, no. Tu siete sovramodulati. A Giudizio, a punire sarà squillante, era Bozzi. Che ti piace di più chissà, che sei più sexy. No, ma la cosa squillante, ma andava pure vista, se è chiara la modulazione, però rimane più chiusa, come non si sente niente, né sottofondo, né, invece l'altra rimaneva più amplificata. Se sta usando un microfono normale. Lo sta uscendo il mio otto, stai parlando. Lo sta uscendo. Io Natale. Aspetta, forse stava. Parla tu. Isma, niente, non stai uscendo. Andrà bene Meda. Già seguito il microfono, l'ha cambiato perché non è c'è questo. Antonio Bizzaiolo. Antonio. Ah carità Antonio, che prendi di chi devi fare a pizza? Cara pizzina. Alberto, c'ha mai il microfono. Ma cari. Non è entrato più. Per carità. Vuoi che ti dica? Ma dai, dove l'hai presa quella là? In che almeria si è andata a prenderla? In via Grazia dell'Edda l'avevo presa quella. E l'almeria? Sì. C'è l'almeria in via Grazia dell'Edda? Sì signore. Se non ci ho mai fatto un caso. Vicino a quelli che fanno la pizza al taglio e a quell'altezza lì. Sì, dove c'è Obelix, la pizzeria Obelix. Praticamente il vecchio padrone si chiamava Pipistrello di Giulio. Ecco Pipistrello. Pipistrello veniva una latina oltre. No, dietro c'è un ragazzo lì, se devi andare a prendere qualcosa avvertimi. E te l'ho detto, se devo prendere adesso, quando si sistemerà tutto, vorrei prendere quella, un tipo come quella che c'ha Remedio. No, chi c'ha questa druffu, ed è pisanti, Manuele. E lo so, ragazzo mio, non posso pigliare un giocattolo. E se ti senti pigliare un giocattolo, come te la mia la pigli? Ma che ti manco, le bestie si acciappano, si acciappa tutto e la puoi modificare mentre cazzo vuoi. Io la mia l'ho tutta modificata, tu la devi vedere com'è e provare soprattutto. Sì, adesso guarda sarà che è ok, casomai ti caglio una tarea per una di quelle pistole lì. Luca, Antonio è occupato, sta facendo la pizza. Scusa, non ci sto più andando. La fondina è tutto. Ti ha sovramodulato, ti hanno sovramodulato. Cos'è che hai detto, Natale? E c'ho il cinturone con la fondina. C'ho. Tanto io non ne uso, come quello della polizia. Nero. E ce l'avevo anche io, mi sembra che ce l'ho ancora la fondina, quella girevole. No, come quella che c'ha la polizia, è tipo come quella che c'ha la polizia, solo che è nera. Le ultime che aveva, non mi... Ehi, il coso della pistola, la fondina della pistola è girevole, io ce l'avevo girevole, te la potevi piegare per quando ti sedevi in macchina che non ti toccava la canna nella, nel coso delle marce. Io ho capito. Picchichito, picchichito lui, allora è giunta le noghi lungane, vabbè. Mi sembra che ce la dovrei avere ancora, non dimmi, ma ce la dovrei avere ancora, era della beretta che ci avevo. E cappa. La corsa che ci ha unito, lo so, però quelle lì sono pesanti, non sono precise come quella che ho io, perché io le ho provate tutte, ho provato quella di Emilia, ho provato la beretta, insomma, ne ho provato, ho provato quelle Tanfuglio anche, quella da gara, calibro 40, cazzo, ne ho provato di pistole, ma quella che ho io va benissimo, perché dove mi va il colpo, è precisissima. Vabbè, se sono allineate, precisassi. Io, guarda, io sparavo con la... sono andato un paio di volte lì, perché noi andavamo a Piano Gentile a sparare. Eppure era cazzo ben allineata la beretta. Non mi trovavo bene. Il problema che c'aveva, che non mi piaceva, che quando iniziava a scappare, a sparare 3-4 colpi si inceppava la molla, allora dovevi riscarrellare, rimettere un casino. Eh no, chissà, un cazzo si inceppa la mia. Quindi si innaia e quindi si netto gli furi, non si inceppa mai. Ma Sardini la burida. Io la mia ogni volta che tornavo da sparare, ma non sparavo pochi colpi, io ne sparavo 100, 200 ogni volta che andavo. Cazzo. Questa qui che ciò ha sparato poco, per esempio, ma l'altra andava, chissà da un foglio di bambino, cazzo, gli ho fatto sparare migliaia di colpi. Quella l'ho venduta a Sussinco, nuova, quando vi l'ha dai. Quindi, dare preoccupazione a loro... Non abbiamo una mitica. Poi l'avevo modificata, gli avevo fatto il mirino regolabile, perché cazzo sparava come la beretta e quindi a me non mi piaceva, e gli avevo messo quell'attacca di mira regolabile, proprio per essere precisa. Vabbè, no, io guarda, io l'avevo presa usata, però era semi nuova, cosa che stai sparando, non è parato nulla, non ha sparato proprio niente, me l'ha venuta mio compare e fa a me, Manuel, te la vuoi questa, perché lui c'aveva solo che era nuova nuova, con la valigetta tutto qua, se c'era tutto il coso, il kit per pulirla, e solo che c'era quel problema, magari era anche una cazzata, o era anche la molla difettosa, non lo so, non l'ho mai portata a controllare. Sparavi quei 3-4 colpi, adesso come scaldava la canna si inceppava e dovevi riscaldare, rimettere tornare il colpo di canna e malevare. E può darsi che era la molla che non serviva, bastava cambiargli la molla nuova, li mettevi e vedai si scarrellava. Perché qua è strano che dopo 3 colpi ci inceppi la pistola così se è pulita. La mia cazzo, zozzami, un cazzo si inceppa. A che cazzo io la di Niue? Ogni volta che tornavo a sparare me la pulivo. E ha sempre pulito. Ah, anche io la pulivo, quando ero di riposo, sempre, ogni settimana, ogni fine settimana, anche io la smontavo, penso, sette pizze, la pistola era, sette pizze, sia molla, canna, calcio, io la smontavo tutta, la pulivo, da qua c'avevo anche la mammoletta che mi aveva mandato in armeria, a Piano Gentile, per lucidare, da qua, la pulivo sempre. Solo che adesso chi ce l'aveva non se la fruttiva le palle, non la puliva, capito? Però la pistola era buona, perché era, secondo me era una cazzata che sicuramente era la molla che era difettosa. Sì, magari era troppo molle era la molla, potevi cambiargli la molla e gliela mettevi più rigida, capito? Tanti pezzi della beretta ci trovano anche quelli. Sì, adesso vediamo un po', adesso se tutto va bene, speriamo bene, ma questo bambino è di meno ore. E beh, cazzo, tutti i soldi di Grebani, perché se lo fai prolungatamente ti brua, forse. No, sono tanti, non te lascia pelle, sono lascia pelle che cazzo ti brucia la testa, ti brucia. Non va bene il lavoro così, non va bene proprio. Lì dove mi devono far sapere, sì, è rischioso, so che è rischioso perché l'ho fatto, non è che non l'ho fatto, e so cosa va incontro. Sì, lo so. Vabbè, e che vuoi che ti dica? Che vuoi che ti dica? Ti auguro che ti vada bene la situazione. Ah, io mi auguro di sì, penso di sì perché stanno cercando col decreto, più che altro. Sì, gente, appronta voi. Ma per voi c'è gente che non ne ha mai fatto, non sarà da capa che comincia. E infatti, poi quello lì adesso ne le mancano 5, saranno tutti malattia, poveracci. Sì, ne mancano mezzo poco, anche malattia, Chissà pure se cammina, pure come anche lui a camminare. E quello che hanno colpito dice che non è grave, stava dicendo un vicequestore. Che non è grave, stava dicendo quello che hanno colpito. Ma deve essere l'ha colpito di striscio, perché se lo prendevano proprio la via di sicuro là che viene la via Gigardi. Ah, quello sì, evidentemente l'hanno colpito di striscio, ma l'avranno cucito. Però cazzo, adesso deve stare un po' a casa, per forza. Minimo si va quasi un'annetta a casa, se tutto va bene. Non è così, no. La ferita di arma da fuoco non bisogna scherzare. Poi poi si l'hanno imparato con un galattico, si rubigliava all'anca, non si chiama russo. È quello che sto dicendo io, è quello che sto dicendo io, quello lì sicuramente di fresco l'ha preso, ma non col calasmico, con qualche pistola più leggera, non col calasmico, se l'abbiamo mirato col calasmico il cazzo della brincata all'anca. E infatti, e non è quello, l'avrà preso di sfiscio. È andata anche bene. E alla grande gli è andata, che cazzo, rubigliava in pieno all'anca, guarda. Ehi, dai, su. Vabbè, dai, apparecchia, tarichina, concentrati, non di culi oggi. Ehi, va giù la brucia, e no, che cazzo, lì fu una bruciata, va, mia chiccia. Parla adesso. Manuele, tu sei testimone di quello che sta dicendo. C'ho un erbo di bue, la prendo a frustate. Cazzo coce, che ti frusta tutto stanotte. Stanotte la prendo a sonno, come ha fatto mamma a me per la dito. E a tutti c'è giù sta gatta, con i piedi già basta, gatta. E a chi mamma di dita, sicuramente non ve la va via a chi la mi manni, no? Muriaco di a Mario, a Rubio Minori, mamma. Hai sbagliato, gatto, e invece di Cudì a Mario a Cotta Angelo, ti racconto di Casussa. Cazzeria. La tinta durata a chi ci commenti di prima mani di mani e danno per la pazzia e allora ti tintava quando eri cucata cuditi ha tirato, ha sbagliato pure persona, perché doveva picchiare a Mario, no a Angelo, invece ha sbagliato e ha picchiato a Angelo. Vai tu, che se non si aveva detto già suo Angelo, il poverino ha preso questa sussa. A chi l'ha cuttu quella volta l'ha cuttu? E l'ha cuccato di raccontare, si è abbastanza di chi si vuole si tratta nei livelli, minimi. Ma proprio a livello. Faccio pure i zoccoli. E gli ha fatto male, mi cazzo. Cazzo, anda a curia Mario invece hai sbagliato e ha cuttu Angelo. Io. Vabbè dai Natali, che mi state tu devi andare a mangiare, che vado a guardare un po' di televisione, va. E vabbè dai, ci sentiamo alle prossime, Emanuele. No problem. Ciao Natali, in caso è poi quando sarà andiamo assieme per quella commissione. Sì, infatti. Giulio Giulietto,